Italia in controluce. È il pomeriggio di Radio 24, oggi è il 10 luglio. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. Li abbiamo definiti gli angeli del terremoto emiliano. Sono i volontari provenienti da ogni parte d'Italia che si stanno dando da fare da mesi per alleviare le sofferenze della popolazione colpita dal terremoto. È un lavoro certamente immane che comporta spirito di sacrificio e enorme disponibilità. Sentiamo insieme il reportage di Maria Luisa Pezzali. A differenza dei letti che non c'erano per tutti, la colazione c'è per tutti in abbondanza. Io darei priorità alle persone anziane e ai bambini, mamme con bambini. Maggio, finale Emilia. È il primo risveglio per gli sfollati del terremoto che ha sconvolto l'Emilia-Romagna. È il secondo giorno di lavoro per le migliaia di volontari che da allora aiutano le oltre 10.000 persone ospitate nei campi di accoglienza. Un'attività, quella del volontario, fatta di dedizione, impegno e resistenza alla fatica. Claudio Gatti coordina i volontari della Protezione Civile di Modena. Nelle prime settimane, diciamo, si è pensato esclusivamente al montaggio tende, sistemazione delle tende, impianti elettrici, eccetera, ovvero tutto quello che concerne la logistica di un campo con turni anche massacranti, perché si cerca sempre di andare avanti il più possibile, cercare di fornire al più presto possibile il posto al coperto per le persone e un posto letto per questi sfollati. Successivamente si passa alla gestione ordinaria, che può voler dire, come è successo nelle ultime settimane, attrezzare i campi con delle strutture di ombreggiamento delle tende, con teloni appositi e la distribuzione dei condizionatori. La vita normale del volontario comincia verso le 7:30 del mattino, termina oltre le 20 dopo cena e continua con dei presidi anche durante la notte, perché possono sempre verificarsi delle emergenze di tipo idraulico o tipo elettrico, per cui c'è sempre comunque nei campi e nelle strutture fisse una presenza continua e garantita di personale specializzato. L'età media dei volontari qual è? La più svariata, un'età media non gliela so quantificare, ci sono persone ultra 65 anni che sono come dei leoni che combattono contro gli avversari della savana, ma che comunque danno un apporto sicuramente molto forte al lavoro che fanno i volontari. Ci sono anche ragazzi 18-19 anni appena entrati in protezione civile, appena formati sotto il punto di vista delle normative attuali, che comunque danno un loro impegno costante grazie alla loro forza. Le età sono tutte comprese, ci sono persone che lavorano, persone disoccupate che mettono a disposizione il loro tempo per queste attività. Dai 19, diciamo, ai 70 anni li prendiamo dentro tutti. Ho visto una grande solidarietà, questo sì, soprattutto anche tra volontari e ospiti si stabiliscono dei rapporti d'amicizia che sono stupendi, proprio un scambio reciproco di esperienze e di esperienze umane soprattutto. Per esperienza anche diretta, posso dire che quando si ritorna a casa stanchi, stanchissimi, perché un turno settimanale in un campo logora parecchio il volontario. C'è chi fa anche due turni consecutivi, c'è chi fa anche di più, ma cerchiamo un po' di contenere queste forze, perché alla lunga possono diventare nocive per la salute proprio del volontario. Chi torna a casa con gli occhi lucidi, perché anche il solo grazie che ti dice la gente quando stai per partire, che sa che parti, che ti viene a stringere la mano, che ti viene ad abbracciare, ti dà una sensazione proprio di appagamento interiore che difficilmente altre cose ti possono dare. Molti dei soccorritori sono essi stessi vittime del terremoto, vivono nelle zone colpite e non hanno smesso di aiutare gli altri, ci dice Michele Camurati, responsabile della sala operativa della Croce Rossa in Emilia. Sono afferite, diciamo, anche le colonne mobili esterne, più, diciamo, le colonne, i centri di interventi di emergenza da parte del Piemonte, il Veneto, però abbiamo ancora uno zoccolo duro di personale che vive e svolge servizio presso le sedi, quindi conosce molto bene la realtà e la sta vivendo, molti la stanno vivendo anche con la duplice veste da soccorritore di ospiti. I volontari l'hanno vissuta prima come cittadini e poi come volontari, chi non era già in servizio durante gli eventi, e stanno continuando a dare un ottimo sistema di risposta pur avendo parenti, amici ed essendo loro stessi vittime del terremoto. A Finale Emilia per la Caritas, Luca coordina gli interventi di tutte le diocesi colpite, si occupa del magazzino delle donazioni e delle attività nelle parrocchie, giochi estivi e campus per i ragazzi. Gli animatori sono volontari e in queste settimane arrivano da tutta Italia. Molti degli ambienti parrocchiali sono danneggiati e tanti inagibili. Questo costringe chi vuole fare la normale attività estiva di parrocchia ad organizzarsi negli spazi aperti adiacenti oppure che trova nei dintorni della propria parrocchia. Chi riscopre piccoli segni di normalità, quale può essere appunto la vita estiva di un oratorio, in mezzo a tanta anormalità che è appunto la vita di un dopo terremoto, nelle intenzioni di Caritas nel supportare le parrocchie, proprio dare questo segno di normalità in mezzo alla disperazione di chi si trova veramente senza più una casa. Tutti capiranno che un ragazzo, un bambino che gioca in compagnia non può essere altro che felice. Ecco. L'importante è che si possa dare dei segni di normalità almeno ai bambini. Del trauma subito dai più piccoli, del sostegno psicologico necessario per affrontare di nuovo la vita di tutti i giorni, si occupa fin dai primi momenti dell'emergenza Telefono Azzurro. Annalisa Merra è la responsabile dei volontari dell'associazione e operativa nel campo della protezione civile di Finale Emilia. Le nostre attività iniziano sul campo più o meno alle 9:30 della mattina. Quello che facciamo è da una parte offrire uno spazio ludico ai bambini, dove i bambini sicuramente possono incontrarsi e giocare però con l'obiettivo sì da una parte di distrarsi, di rilassarsi, ma soprattutto quello di poter interagire con delle persone e parlare, esprimersi. Una delle cose in questo momento molto importanti per loro, raccontare la loro esperienza, elaborare quello che hanno vissuto attraverso però delle modalità a loro molto vicine, quali appunto quelle del gioco. Adesso che ormai è più o meno un mese che noi siamo presenti nei campi sia di Finale Emilia sia di Cavezzo, con dei volontari e con appunto un'equipe, un team di psicologi, hanno imparato a conoscerci, quindi cominciano anche a raccontarci le paure di rientrare a casa. Spesso appunto ci raccontano come hanno vissuto i due giorni che loro ricordano rispetto al terremoto, cosa stavano facendo in quel momento, la paura che hanno avuto, e raccontandola in qualche modo appunto cercano di affrontarla. Adesso la paura maggiore è proprio quella di, da una parte, il desiderio di voler tornare a casa, dall'altra però la paura che possa ancora succedere. Nelle zone del sisma ci sono anche i volontari dell'EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali. Gabriele Tostani è uno di loro. Fa base nel campo della Misericordia di San Felice sul Panaro. C'è anche un'attività di recupero animali, sono stati recuperati diversi gatti, alcuni in buone condizioni di salute, altri feriti, sono stati medicati, e è stato fatto anche un bel recupero di una civetta. C'è anche chi si è portato nel campo di accoglienza il proprio animale domestico, che quindi necessita di assistenza, di cure? Sì, moltissimo, rispetto ad esempio all'esperienza che abbiamo avuto noi all'Aquila, dove c'era molto di più un problema di randagismo e quindi il problema dei recuperi era predominante. Con questo evento sismico e viceversa, la gente è scappata dalle case con il pet al proprio fianco, e quindi adesso sono molti, molti cani, molti gatti, sono nei campi, hanno la loro cuccia di fianco alla tenda e cercano di tenere il proprio animale al loro fianco. Ecco. Era Italia in controluce e gli angeli del terremoto emiliano. Torniamo domani alle 13.30 su Radio 24 con un nuovo reportage, questa volta sul fotovoltaico, a cura di Laura Bettini. Vi ricordo che questa, come tutte le puntate, è scaricabile in podcast. Potete andare sul nostro sito radio24.it oppure trovate su Facebook la nostra pagina e il gruppo e su Twitter il luogo per capire, per comprendere quali saranno gli argomenti e i temi di questo programma.